ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Non ci sono le condizioni per nessun lockdown nazionale e per nessun territorio, rassicura il ministro della Salute Speranza, dopo aver partecipato alla riunione urgente del Comitato Tecnico Scientifico in vista del nuovo decreto presidenziale che potrebbe essere firmato già in serata. Le norme in arrivo sono nazionali e le regioni avranno la possibilità di agire rendendole più restrittive. Agiremo sugli assembramenti e sugli orari dei locali, ma anche sugli sport, dove non è possibile usare mascherine o mantenere le distanze, aggiunge Speranza annunciando lo stop alle feste private e più controlli contro la movida. Molte le novità per rendere più semplice la procedura di tracciamento e recupero dalla malattia. Si abbasserà il periodo di quarantena da 2 settimane a 10 giorni e i positivi per uscire dall'isolamento non avranno più bisogno del doppio tampone negativo, ma ne basterà uno. E per frenare la movida sarebbe in arrivo la chiusura di bar, pub e ristoranti alle 24 e lo stop della vendita delle bevande da asporto alle 21. Avrete anche voi, come me, visto il ministro Speranza, ospite di Fazio ieri, che ha anticipato quello che verrà ormai notificato da qui a poco. E avrete letto, probabilmente ognuno il suo giornale, l'ho letti parecchi contrapponendoli questa mattina, vedendo quella che è la reazione nel racconto quotidiano dell'emergenza. Io ho avuto ancora una volta l'impressione che sarebbe fondamentale avere, non voglio dire una fonte unica di informazione che sarebbe senz'altro confusivo, ma una sorta di accordo su quello che è, diciamo, la concretezza di quello che sta accadendo, perché ho visto in maniera molto spiccata, molto visibile, ancora una volta l'uso dell'emergenza in chiave strumentalmente politica. Alcuni giornali titolano ampiamente: ci vogliono rinchiudere ancora una volta, è una maniera per dominarci, per controllarci tutti, non c'è assolutamente bisogno. Altri giornali accusano altri giornali di aver usato strumentalmente i dati, soprattutto relativi all'app Immuni. Le regioni rosse sono state favorite, quelle gialle, verdi, blu invece sono state penalizzate. Non so bene, non voglio entrare in questo specifico, lo trovo abbastanza pericoloso in questo momento. Girano anche, come girano i messaggi di Osho, scalette, numeri, interpretazioni, meme, cioè personaggi che, non so, si guardano i dati, li commentano con frasi comiche e via dicendo. Insomma, mentre noi ci apprestiamo ancora una volta a cambiare alcune delle regole quotidiane del nostro vivere collettivo, mi sembra che l'informazione dovrebbe in questo momento cercare il più possibile di avvicinarsi a dei dati oggettivi, al di là delle interpretazioni, al di là delle palesi contraddizioni che molte volte ci sono nei decreti. A tutti sembra ridicolo che si fermi il calcetto, poi in questo momento stanno girando fotografie della stazione metropolitana Roma Flaminio questa mattina, in cui c'è una massa di persone immensa, incredibile. Sarà veramente fatta questa mattina la foto? Sarà così? È vero che si fermano alcune attività, altre attività rimarranno sicuramente a rischio. Ci sono i ragazzi ammassati davanti alle scuole, che senso ha chiudere le festicciole? Poi viene fuori la mamma pancina che sapeva di avere i sintomi del Covid e non ha rinunciato a fare 2 festicciole per i bambini che devono fare i compleanni, 8 anni, parliamo di 8 anni. Insomma, forse ci sarebbe meno confusione e meno margine di ambiguità si cercasse semplicemente di fare un punto analizzando quelli che sono i numeri che si hanno a disposizione, per capire veramente se è coerente, se è giusto, se concretamente dobbiamo tutti collaborare a far sì che ci sia un maggiore livello di sicurezza generale nel nostro paese, o se in effetti forse dà più soddisfazione e crea magari una sorta di immunità mentale il fatto che ognuno pensi quello che a lui fa più piacere credere, che sia tutto un complotto, che la mascherina non serve, che ha giusto Fusaro a dire al vice ministro per la salute che è un gesto fascista mettersi la mascherina. Quello prova a fargli capire, dice: guarda, te la metti per rispetto degli altri. Sì, ma io sono per strada e non c'è nessuno perché devo tenerla. Entriamo in queste piccolezze, visto che è diventato un fatto ideologico. Si fa prima tenersela sempre sulla faccia e camminare per strada, o toglie e metti ogni volta che qualcuno si avvicina nel raggio dei nostri 2 metri? Ecco, siccome non mi va di aggiungermi anche al coro di coloro che ribattono, tengono posizioni, mi fermo ai numeri, con 2 persone che giudico capaci di darmi una lettura oggettiva dei numeri, senza interpretazioni ideologiche, perché nessuno dei due ha nulla da guadagnare o a seminare il panico, il terrore, o a minimizzare. Quindi Nino Cartabellotta, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, è diventato ormai un nostro ospite abituale, ma è la persona che ritengo più attenta nell'analisi quotidiana dei dati. Cartabellotta è un medico, presidente della Fondazione GIMP, che è un gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che ogni giorno sforna report, punti e interpretazioni sui dati, e si basa sull'evidenza scientifica, quindi cerca di integrare tutte le evidenze scientifiche, prendendo tutto quello che in questo momento viene fornito come dato e numero, diciamo, da poter analizzare. Andrea Rossetti, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Anche Andrea Rossetti lo conoscete, è un docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Chiamo anche Rossetti, che medico non è, ma è un docente di informatica giuridica, perché attorno all'app Immuni, di cui abbiamo parlato molto spesso, abbiamo parlato anche in maniera critica, che fa parte delle indicazioni base per preservare la salute pubblica, assieme a mettersi la mascherina, lavarsi le mani, mantenere il distanziamento, sorgono e ci sono questa mattina un'infinità di voci contrastanti. Quindi anche con Rossetti cercheremo di fare il punto. Voi, per quanto potete, se avete domande precise, questa mattina le dichiarazioni ideologiche non mi servono, non mi servono gli infettivologi da bar, non mi servono nemmeno gli informatici da retrobottega. Gli esperti già ce li ho e hanno la mia massima fiducia. Se avete dei problemi specifici da porre nei vari campi, quello dell'analisi dei numeri sull'emergenza sanitaria e delle possibilità di avere dei vantaggi, più vantaggi possibili dall'app Immuni, il numero è sempre 800 24 00 24. Allora, Nino Cartabellotta, vediamo questa mattina se è possibile di fare dei numeri che abbiano una loro coerenza, una loro oggettività, perché se entriamo nel campo delle interpretazioni, come si fa nella maggior parte dei talk televisivi serali, ormai è una sorta di show calcistico in cui ormai anche coloro dopo rappresentare scienza e coscienza, appunto, rappresentano delle parti. Vediamo se con te riusciamo questa mattina a capire. C'è veramente uno stato di allerta per cui dobbiamo cominciare a pensare che quello che è stato fatto adesso non basta più, dovremmo fare qualcosa in più? La risposta è sì, non lo chiamerei più stato di allerta, ma stato di sana consapevolezza che deve essere diffusa. Di attenzione, di attenzione. Ecco, di sana consapevolezza, perché quello che è successo negli ultimi 10 giorni è che quell'incremento della curva dei nuovi contagi settimanali che ci siamo raccontati anche un paio di volte dopo il rientro dalle ferie, che aveva una tendenza, si dice, lineare, quindi cresceva ma cresceva costantemente, negli ultimi 7-10 giorni è diventata esponenziale, cioè, per dirla in termini non tecnici, si è impennata molto di più. E questo ce lo dicono i numeri delle ultime quasi 3 settimane, perché noi al 23-29 settembre avevamo poco più di 12.000 casi in una settimana, la settimana successiva 30 settembre, 6 ottobre siamo arrivati a 17.200 e adesso mancano ancora quelli di lunedì e martedì, siamo già a 19.231. quindi questo incremento, attenzione, sottolineo che non è dovuto solo al fatto che si fanno più tamponi, perché anche su questo bisogna ragionare su quella che è la realtà. I tamponi si sono aumentati in maniera importante dopo il rientro dalle ferie. Ora quello che sta aumentando in maniera, diciamo, consistente è il cosiddetto rapporto tra positivi e casi testati, cioè ogni 100 persone che fanno il tampone, quante risultano positive? La media nazionale nell'ultima settimana, dal 4 all'11 ottobre, è già salita al 6,2%. Ci sono regioni come la Valle d'Aosta che nello stesso periodo sono già al 14%, la Liguria al 12,2%, la Campania al 9,2%. Quindi sono situazioni dove il virus sta circolando molto di più di quanto lo cerchiamo e quindi bisogna fare in modo di potenziare l'attività di testing, una delle motivazioni che ha portato il governo a decidere anche di fare soltanto un tampone di controllo dopo per documentare la guarigione e ad ampliare quello che è le capacità di testing attraverso i test rapidi, che però presentano, come vedremo, alcune difficoltà. Tutto questo perché è necessario tenerlo sotto controllo? Perché, come più volte ho ripetuto, ma purtroppo non sempre, come giustamente dici tu, ci sono delle comprensioni dei numeri, quanto più noi non riusciamo a tenere sotto controllo l'epidemia a livello del territorio, quindi a tracciare e isolare i contatti, quanto più aumenta la probabilità che poi questi soggetti, che oggi sono in larga misura in isolamento domiciliare, vadano poi a ribaltarsi e quindi a cominciare, diciamo, ad affollare gli ospedali. E questo in alcune regioni sta già capitando e non è un caso che dove si testa di meno gli ospedali si stanno cominciando a riempire di più, senza per cortesia fare più confronti numerici assoluti con i numeri della prima ondata di marzo-aprile, perché non ha nessun senso, perché quella era un'ondata improvvisa, questa è un'ondata che noi stiamo studiando invece in risalita. Ecco Nino, esattamente, tu fai riferimento a uno specchietto di numeri che sta girando in rete, lo mandano tutti, già me lo stanno mandando a me, perché dice, ah, senti sempre gli stessi, guarda qua. Sì, l'ho visto però in molti talk della serata televisiva, è sempre quello lo specchietto in cui si mostrano i dati tra il 28 marzo e il 9 ottobre, che praticamente da questo schemino verrebbe fuori, ma ci stiamo a prendere in giro, non sta succedendo niente. Ecco, vuoi ribadire gentilmente esattamente perché è inutile mandarsi questo specchiettino che si mandano tutti quelli per dire che è tutta una bufala? Lo specchietto non serve a niente, perché noi nella prima ondata abbiamo fotografato la punta di un iceberg che aveva un pelo sotto l'acqua, quindi diciamo una quantità di casi sommersi che probabilmente erano 10, qualcuno dice anche 15 volte rispetto a quelli reali. Quindi il confronto con i numeri attuali, che invece ci permettono di guardare buona parte, ora una parte probabilmente non riusciamo più a guardarla, di quelli che sono i casi asintomatici, è assolutamente improprio, perché riguarda due dinamiche completamente diverse. Peraltro non dobbiamo dimenticare che la prima ondata è stata caratterizzata da un numero enorme di casi in Lombardia, dove c'è stato anche un importante sovraccarico ospedaliero, che hanno trascinato praticamente quelli che sono i numeri nazionali. Noi oggi invece ci troviamo in un'epidemia che è diffusa in tutto il paese e quando noi andiamo a parametrare i numeri da quelli che sono i casi totali, i casi per 100.000 abitanti, non vediamo più quelle differenze che vedevamo nella prima ondata, dove la Lombardia aveva più del 50% dei casi, ma vediamo che il numero dei nuovi casi per 100.000 abitanti è pressoché costante, con alcune differenze, alcune volte tra la prima e l'ultima regione anche importanti, ma enormemente più diffuso di quanto non lo fosse nella prima ondata. Quindi ogni confronto che noi facciamo tra la prima e la seconda è improprio e fuorviante, anche perché, e chiudo questa con un'immagine figurata, se noi confrontiamo le due ondate, quella della Lombardia ha un'altezza tale che non potrà mai essere raggiunta da nessuna regione, nemmeno dalla Lombardia stessa. Se confrontiamo quella della Campania, la seconda ondata già è molto più alta della prima, così come in tutte le regioni del sud che durante la prima fase sono state protette dal lockdown. Quindi evitiamo di strumentalizzare a proprio piacimento i numeri, perché i numeri sono quelli e vanno interpretati secondo le dinamiche, non secondo le aspettative, piuttosto che i bias cognitivi che ciascuno di noi può avere. Ecco, ti faccio altre due domande che sono i punti. Non entro in merito sui no mask, non sto nemmeno a parlare. Assolutamente. Diciamo la battuta più divertente l'ho avuta nel gruppo di Melog su Telegram, che uno ha detto stamattina, il loro problema è che i loro genitori sono stati no condom. Questo è brutta, è un po' pesantina, ma è esattamente questo. Diciamo, sono generazioni che hanno negato dei salutari presidi al benessere pubblico. Detto questo, ti dico qualche due cose, obiezioni fatte comunque dagli anti-lockdown, che dicono saremo rispettosi della legge, però i positivi sono tutti asintomatici, quindi perché mandiamo in giro gli asintomatici? Non c'hanno nessun problema, possono andare in giro tranquillamente. E poi il virus si è indebolito, ancora questa cazzata col virus indebolito. Allora, sulla seconda utilizzo un altro termine che mi richiama, diciamo, il famoso film della corazzata Potionchi, che tu ricorderai benissimo. È assolutamente falsa, è un'affermazione che non è supportata né da studi virologici né da studi di sanità pubblica. Quello che in realtà noi oggi di cui dobbiamo prendere consapevolezza è che parallelamente all'incremento dei nuovi casi, che è vero per il 93-94% sono, attenzione, non asintomatici ma in isolamento domiciliare, cioè sono soggetti che sono in parte asintomatici, circa il 35%, in parte oligosintomatici, quindi hanno pochi sintomi influenzali e possiamo dire in generale non richiedono ricovero ospedaliero. Ma qual è il problema? Che aumentando il famoso bacino dei casi attualmente positivi, quelli che a ieri sera sono diventati praticamente quasi 80.000 e a metà agosto erano 15.000, quindi è una crescita molto consistente, stanno aumentando progressivamente, parallelamente anche il ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Se non vogliamo prendere i numeri di luglio, ma quelli diciamo dei primi di settembre, il primo settembre avevamo 1.380 pazienti in ospedale, ieri ne avevamo 4.519, ne avevamo 66 in terapia intensiva e ieri ne abbiamo 420. Cioè bisogna entrare nell'ottica che la dinamica di questa seconda ondata è quella di una crescita graduale, perché noi la stiamo monitorando giorno dopo giorno, non è la crescita esplosiva che ci ha trovati impreparati nel mese di marzo. Quindi quando qualcuno mi continua a ripetere questi confronti tra numeri, ribadisco, sono inappropriati, fuorvianti e rischiano di alimentare quelle che sono e anche di distrarci da quella che è la necessità di controllare l'epidemia, anche perché, e chiudo su questo punto, l'ultimo elemento su cui si va a ribaltare questa crescita di contagi è sui decessi, che a partire dalla prima settimana di settembre, quando ne avevamo 46 la settimana, l'ultima settimana ne abbiamo avuto 155 e ora mancano ancora due giorni, sono a 136. Quindi è una sorta, diciamo, di ripartenza dalla casella del via del Monopoli o dalla prima casella del gioco dell'oca, che gradualmente, diciamo, porta ad aggravare quella che è la condizione complessiva dei pazienti che sono affetti da coronavirus. Molto più lentamente, ci dà più tempo per il tracciamento e il monitoraggio, però se noi questo tempo lo perdiamo è evidente che poi, soprattutto in alcune regioni, già come vediamo dalle foto o dalle dichiarazioni che arrivano dagli ospedali, si cominciano ad accendere le prime spie rosse di sofferenza. Ecco, mi sembra che ci fermiamo come prima parte della trasmissione, poi riprendiamo tra un istante. Sia stato chiarissimo Cartabellotta, vi ha dimostrato come attraverso l'analisi dei numeri, non delle interpretazioni, in realtà tutti quegli elementi che vengono in maniera, non voglio dire strumentale, non voglio credere si arrivi fino a questo punto, in maniera poco informata, portati sul piatto per dire non c'è nulla da confrontare con quello che è successo a marzo. Sì, non c'è nulla da confrontare perché allora era esploso in una maniera. Oggi sta ritornando su attraverso un monitoraggio costante. Però nessuno vuole mettere paura agli altri, ma il depotenziamento delle norme di attenzione basilari, come se fosse un attentato alle libertà individuali, è veramente una solenne cavolata. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024. Ringrazio Paolo Corleone che mi mette in onda da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrero, Fabrizio Intonti da Roma. Io continuo Home Edition a cercare di trovare un punto di chiarezza per quanto possibile sulle notizie discordanti, a volte contrastanti, corroborate da una forte ideologia molto spesso, riguardo al momento che stiamo vivendo. Ci ha in qualche maniera sintetizzato Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, che quello che bisogna tenere d'occhio è l'aumento esponenziale di positivi e di ricoveri. Si spera non pure di morti tra un po'. Il problema è che i dati non vanno confrontati con quelli di marzo, che erano soltanto l'inizio, la punta dell'esplosione di questo virus. Oggi si manifesta in un'altra maniera, sotto un altro monitoraggio, e diciamo che il monitoraggio ci dice che sta aumentando in maniera esponenziale. Perché? Ci possono essere mille ragioni, ma quella più facile da capire è che si è riaperto il recinto per l'estate, abbiamo tutti, me compreso, dimenticato per un attimo che Era importante continuare a tenere alcune norme ben precise. Per qualcuno è corrisposto andare a ballare, andare in discoteca, viaggiare, andare in spiaggia, riprendere la vita come prima. Per altri magari lavarsi un po' meno le mani, dimenticarsi che anche le persone che si incontrano probabilmente hanno tenuto una certa distanza. Facciamocene tutti carico e cerchiamo di capire qual è la cosa migliore da fare in questo momento. Laura, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Allora, io volevo fare un intervento su... Mi sentite? Certo, bene. Ecco, su un intervento sull'app Immuni. Io l'ho scaricata fin dall'inizio, l'ho fatta scaricare a mia figlia, l'ho fatta scaricare a mia madre che ha 84 anni. Dunque, questa app Immuni funziona volontariamente, cioè io devo volontariamente scaricarla. Quello che trovo assurdo e che secondo me è difficoltoso e forse non tutti lo sanno, che quando uno risulta positivo deve volontariamente inserire il fatto che è positivo. Questo, mi chiedo, viene fatto? Io non penso. E quindi, allora, secondo me, la domanda, la sua domanda è molto chiara. È molto chiara. È su al di là del fatto funziona o non funziona, come funziona, è saputo, non è risaputo, le ASL a cui uno telefona poi non sanno nemmeno cosa devono fare loro quando uno comunica il suo stato. Abbiamo appunto Andrea Rossetti, che è un docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, che ha studiato anche questa mattina tutto quello che oggi è uscito sui giornali di polemica sull'app Immuni e ha monitorato anche lui, come facciamo da prima ancora che fosse resa pubblica ogni giorno, quello che è, diciamo, l'area ufficiale governativa relativa all'app Immuni. Allora, Andrea Rossetti, prima rispondere se possibile alla nostra ascoltatrice, poi comincerà a farci un punto, come ha fatto chiaramente Cartabellotta, sull'app Immuni. Ma sì, su uno dei giornali che appunto guardavo stamattina si raccontava un caso che probabilmente dà ragione alla signora, nel senso che questa malata di buona volontà trovata positiva chiede al medico il codice da inserire nella sua app Immuni per poterlo diffondere e il medico la guarda esterrefatta perché sembra che lei sia stata la prima a chiederglielo e non sapeva neanche bene quale fosse la procedura da fare. Quindi, oltre a essere volontaria, appunto, perché comunque nel momento in cui il medico mi comunica questo codice, io malato, io positivo, non sono obbligato a condividerlo. In alcuni casi anche la persona contagiosa che vuole farlo non è in grado di farlo perché non c'è preparazione di base nell'utilizzo dell'app, in questo caso lato medico. Insomma, perché ecco, spiega, perché nemmeno io ho capito bene questa cosa. Una persona, se risulta positivo, può volontariamente immettere nell'app questo dato o questo dato comunque appare alle persone che hanno l'app attraverso altre strade? No, deve farlo lui, nel senso che nel momento in cui uno è positivo, cioè è stato fatto un esame medico attraverso il quale la sua positività è stata accertata, il medico o il personale sanitario che accerta la positività dovrebbe avere un'app, installata un'app, che genera un codice. Questo codice viene dato alla persona positiva e questa persona deve inserirlo all'interno la sua app Immuni. Questa è la procedura prevista. Ovviamente deve inserirlo volontariamente, nel senso che il medico mi può dare questo codice, ma io non ho l'obbligo giuridico di inserirlo dentro alla mia app Immuni, quindi di comunicarlo. Diciamo che la coscienza generale sarebbe superare questo minimo di reticenza, che posso benissimo capire. Oggi soltanto se si fa uno starnuto ti guardano come un untore, figurati se uno a cuor leggero inserisce nell'app il fatto che comunque fa parte delle persone che sono contagiose. Qua mi sembra che soltanto i VIP o le persone note comunicano al mondo di essere contagiose, gli altri se ne stanno ben zitti, come la mammina pancina delle due feste per i bambini l'altro giorno a Roma, ecco, una cosa del genere. Esatto, a maggior ragione, scusami. Continua. Il garante, in una delle 12 osservazioni che fa, rileva proprio il fatto che le informazioni che vengono introdotte dalla persona positiva non possono essere considerate dati anonimi, e qui sto letteralmente leggendo le osservazioni del garante. E di conseguenza chi effettivamente comunica la sua positività, il garante ritiene che l'app, o meglio il back-end, la parte dietro l'app, quella che noi non vediamo, che fa funzionare tutto il sistema, in realtà non dia sufficiente, o meglio non sia stato spiegato che garanzie dia a colui che ha segnalato la sua positività, cosa che è davvero grave questa, no? Perché effettivamente da qualche parte nei server risulta che uno è stato positivo e di questo dato chissà in futuro cosa se ne potrà fare. Questa è la cosa abbastanza inquietante. Quindi, Andrea, ritorniamo al punto, visto che non facciamo delle trasmissioni elogiative degli operati governativi, lo dimostra anche il fatto che sull'app Immuni c'è ancora qualcosa da dire oggettivamente. Ne parliamo sempre, la seguiamo, la stiamo testando con docenti universitari che si occupano di informatica giuridica, quindi non è che lo facciamo con lo smanettone amico di famiglia. Andrea Rossetti, se ho capito bene, dice che ancora ci sono in quest'app dei punti che andrebbero chiariti meglio, o bisognerebbe intervenire con un upgrade su questo versante dell'app, se no è un po' difficile continuare a dire scaricatela, scaricatela, scaricatela. Sì, scaricatela, ma a patto che siano tenute conto anche di queste cose. Esattamente questo diciamo l'atto giuridico, no? Insomma, il garante ha fatto le osservazioni alle quali non sono state date risposte. Nel frattempo il garante è cambiato, il nuovo garante è subentrato, però non è che i provvedimenti di quelli precedenti siano decaduti. Ma la cosa secondo me più grave è dal punto di vista dell'attendibilità scientifica di questa applicazione, cioè nei 5 mesi in cui la possiamo scaricare non è stato portato avanti nessuna sperimentazione scientifica sulla sua efficacia nel contenere effettivamente il contagio. Questo è preoccupante secondo me, perché ma dai molti dei messaggi che leggo insomma sui social network sembra che scaricare questa app mi garantisca rispetto a una serie ai contagi e ai contatti che posso avere, ma non è vero, cioè anche se tutti l'avessero scaricata noi in realtà non abbiamo fatto una sperimentazione che ci può dire qual è l'effettiva portata dell'utilizzo di questa app nel contenimento della diffusione dell'epidemia, semplicemente non lo sappiamo. E se all'inizio c'era la necessità di lanciarla velocemente e quindi si può anche capire la fretta del governo di fare questa cosa velocemente senza una sperimentazione adeguata, dopo 5 mesi e peraltro in attesa della seconda ondata non si capisce veramente perché non sia stata messa in piedi appunto una sperimentazione come deve essere fatta, quindi su un campione limitato, con le persone controllate in maniera medica, no? che installavano questa, questo processo non è stato assolutamente fatto. In compenso hanno iniziato adesso questa campagna martellante, no? Che qualche risultato lo sta ottenendo e che peraltro continua a comunicarci unicamente il numero di download, dato che francamente non è particolarmente significativo, no? Quello che quante app noi scarichiamo che poi non usiamo, lasciamo lì, le scarichiamo 2 volte, 3 volte, 4 volte, le cancelliamo, questo vuoi dire Andrea? Esatto, io per provarla quest'app l'ho scaricata su almeno 3 device diversi e complessivamente l'ho scaricata credo 10 volte. No? Allora ci fermiamo ancora un po', Andrea. Allora, tu hai dato il tuo punto di vista da informatico giuridico, tu non sei un no mask, non sei uno che dice è tutta una bufala, sei una persona che si attiene ai dati per il tuo campo. Poi sentiremo adesso anche con Nino Cartabellotta quelli che sono invece i dati ufficiali e vediamo come poterci anche su questo dare se possibile un'indicazione di chiarimento. A tra poco. Melog 800 24 0024, un secondo punto questa mattina abbiamo fatto con Andrea Rossetti, che è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, sull'app Immuni, e Rossetti ha individuato alcuni punti che meriterebbero un chiarimento. Sentiamo adesso Nino Cartabellotta, l'altro ospite che ci ha ascoltato nell'intermezzo, che ricordo è presidente della Fondazione Gimbe. Nino Cartabellotta, rispetto a quello che ha detto Rossetti e rispetto anche alle analisi che state facendo voi, puoi darmi un tuo punto di vista sull'utilità dell'app Immuni, come ha funzionato, come potrebbe funzionare meglio? Ma guarda Gianluca, a parte diciamo di sottoscrivere quanto detto dal collega, Immuni è uno strumento tecnologico che deve fare parte di tutta quella che è la strategia complessiva di tracciamento, che richiede ovviamente l'esecuzione dei tamponi, richiede la sensibilizzazione dell'utente per sbloccare il codice, quindi non è una efficacia che possiamo misurare soltanto attraverso il numero di download. Mentre ascoltavo Rossetti, ho aperto il sito ufficiale di Immuni che parla, aggiornato il 10 ottobre, di 8.316.353 download con 8.887 notifiche inviate e 449 utenti positivi. È evidente che se in una settimana noi ci troviamo ad avere 25.000 nuovi casi, stiamo parlando diciamo di un'efficacia abbastanza modesta nel tracciamento. Qualcuno potrebbe dire i download sono pochi, poi non sappiamo quanti vanno a notificare, quanto vanno a sbloccare il codice. Cioè io non vorrei che noi ragionassimo di strumenti tecnologici che possono avere una grande potenzialità senza però conoscere l'efficacia, facendo anche quelle che sono delle sperimentazioni su piccola scala. Ma sappiamo che sin dall'inizio, quando si diceva ma si cominciò a parlare di immuni, già alcune regioni dissero no, ma immuni non serve, quindi c'è stata quasi una sorta, diciamo, di pseudo boicottaggio, quindi come se qualcuno, diciamo, nasce male per quanto è stata comunicata forse. Ma le modalità, io ripeto, sono sempre quelle che noi non possiamo considerare, diciamo, i vari strumenti come se fossero sganciati da tutto il sistema di tracciamento e sorveglianza. Cioè noi nel periodo praticamente che è andato dalla metà di aprile fino alla metà di agosto, togliendo i tamponi di controllo, quindi quelli per effettuare la valutazione della guarigione virologica, viaggiavamo su una media di 30-32 mila casi testati al giorno. È evidente che con numeri così bassi anche un numero elevato di download, o idealmente, diciamo, il 100% della popolazione, la disponibilità di quella scatola tecnologica rischiava di farla rimanere vuota. Se poi io metto che accanto allo scarso sistema di tracciamento non ho un adeguato download e utilizzo dell'app, è evidente che complessivamente il sistema fa acqua da tutte le parti, ed è uno dei motivi, ecco, su questo io vorrei essere abbastanza, diciamo, rigoroso anche nella comunicazione del messaggio. È vero che i contagi sono aumentati perché di fatto noi abbiamo ripreso tutte le attività, però ormai l'effetto discoteca è finito, noi oggi abbiamo i mezzi pubblici affollati, cioè abbiamo tutte le persone che vanno in circolazione, e quindi il sistema di monitoraggio epidemiologico deve essere potenziato in maniera adeguata, in maniera congrua con quello che è l'attuale circolazione di persone, perché altrimenti poi il risultato è sempre quello: appena scappa di mano il tracciamento dal punto di vista epidemiologico sul territorio e i casi cominciano a aumentare soprattutto in maniera esponenziale, qual è la soluzione? Ovviamente introdurre misure, diciamo, limitative, che ovviamente sono indispensabili in questo momento, però sono anche frutto di un mancato potenziamento che in particolare alcune regioni hanno fatto sul tracciamento epidemiologico, perché altrimenti noi scarichiamo sempre tutto sulle responsabilità dei cittadini e la sanità ne rimane sempre fuori. Sì, diciamo che il gioco oggi è lievemente più perverso e sottile, si cominciano a fare i paragoni. Perché bloccare le feste casalinghe quando poi non si bloccano, che ne so, gli ammassamenti nelle metropolitane? Perché chiedere la chiusura anticipata dei locali quando poi tanto i ragazzi si ammassano davanti alla scuola? Esiste una maniera razionale anche per uscire da questa sorta di eterno soppesare fra di loro e vedere che c'è ben altro rispetto a quello che sembra in questo momento la novità nel decreto atta ad arginare comunque il problema? Ma Gianluca, intanto bisogna agire con ampia tempestività. Come io ho sempre ripetuto più volte anche nella tua trasmissione, il virus ha 2-3 settimane di vantaggio rispetto a noi. Cioè noi, quello che stiamo vedendo oggi è frutto delle cose fatte o non fatte intorno alla fine di settembre. Gli effetti del nuovo ma non li vedremo prima della prima settimana di novembre, quindi se la politica e anche i cittadini non prendono consapevolezza di questo ritardo, noi non riusciremo mai ad avere un'attività realmente preventiva su quella che è la biologia moltiplicativa del virus, ma ci faremo sempre condizionare da quelle che sono i ritardi della burocrazia e i ritardi della politica. Il vero grosso problema oggi è che noi abbiamo due grandi strategie per contenere il virus: i comportamenti individuali e le strategie di politica sanitaria, in particolare quelle territoriali, se non vogliamo di nuovo gli ospedali pieni. È evidente però che le strategie, diciamo, che vanno a contenere quella che è la circolazione del virus nella popolazione devono essere commisurate tra potenziale danno economico e potenziale rischio sanitario. È evidente che è difficilissimo potenziare i mezzi in questo momento, ma è altrettanto certo che avere l'80% di tassi di occupazione, soprattutto con i treni di pendolari che scoppiano, va a creare degli incubatori naturali che, per quantunque noi mettiamo l'obbligo di mascherina all'aperto, l'impatto epidemiologico di quegli incubatori è enormemente superiore. Cioè, se non c'è omogeneità, e quindi l'impatto economico alla fine nel generale della cittadinanza sarà fortissimo. Certo, ci impoveriamo anche se continuiamo ad ammassarci e a fare la vita come sempre fosse. Rimaniamo poveri lo stesso, non è che restiamo ricchi ma ci salviamo la vita, diventiamo poveri lo stesso, questo è il fatto. L'ultima cosa, Andrea Rossetti, ci sono delle domande senza risposta rispetto all'app Immuni che potrebbero in qualche maniera chiarire meglio e probabilmente dare anche più possibilità di comunicare questo strumento, abbiamo già capito, con Cartabellotta, uno strumento tecnico, tecnologico, i comportamenti sono fondamentali che vanno prima ancora dello strumento tecnologico. Beh, secondo me uno, ce ne sono molti, Mande, ma una cosa sarebbe davvero interessante, una cosa che la Svizzera fa quotidianamente. Quotidianamente in Svizzera esce un report che dice quante persone in quella giornata hanno attivato l'app, cioè quante persone hanno scaricato, no, dai server i dati per verificare l'eventuale contagio. Ecco, questo dato è completamente, questo dato che sarebbe significativo, perché non solo non ci dice quante persone hanno scaricato l'app, ma quante persone scaricano quotidianamente i dati, non è trasparente, non viene dato, anche qui è stato richiesto più volte in vari modi, ma nel Ministero della Salute, nel Ministero dell'Innovazione, nessuno sembra disposto a dare questo dato, che invece secondo me sarebbe significativo, no? Perché se io sapessi che effettivamente molte persone stanno iniziando a utilizzarlo, probabilmente sarei indotto ad usarlo di più, tenendo sempre presente che la tecnologia, come ha giustamente detto il dottore, ma va ribadito, non è in sé per sé salvifica, cioè quest'app di per sé non ci protegge, insomma, devo continuare ad adottare tutti gli altri strumenti di protezione e in più, se proprio ci tengo a utilizzare quest'app, sapendo che posso essere un falso positivo, può essere rilevata la presenza di un infetto vicino a me che in realtà è molto lontano, perché sono stati anche modificati e non si capisce bene come i parametri della distanza rilevata col Bluetooth, e poi ci sono anche cose, insomma, un po' più così. Vabbè, poi ci ritorneremo su Immuni perché la sigla ci porta via, però ho capito che su Immuni ci sarebbe un po' di lavoro da fare anche nel comunicarla e anche nel riguardare un pochino quello che è il codice, che probabilmente ancora merita qualche approfondimento. Rimane valido il fatto che il distanziamento e la mascherina sono per ora le cose migliori che noi possiamo fare. Alla prossima. Senti, mi sembra capito che vuole quella che... Ah, è finito? Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.